ad alta voce. Massimo Popolizio legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Il padre Cristoforo camminava con una consolazione che non aveva mai più provata dopo quel giorno terribile ad espiare il quale tutta la sua vita doveva essere consacrata. Il silenzio che era imposto ai novizi l'osservava senza avvedersene, assorto com'era nel pensiero delle fatiche, delle privazioni e delle umiliazioni che avrebbe sofferte per riscontare il suo fallo. Fermandosi all'ora della refezione presso un benefattore, mangiò con una specie di voluttà del pane del perdono, ma ne serbò un pezzo e lo ripose nella sporta per tenerlo come un ricordo perpetuo. Non è nostro disegno di far la storia della sua vita claustrale. Diremo soltanto che adempiendo sempre con una gran voglia e con gran cura gli uffizi che gli venivano ordinariamente assegnati di predicare ed assistere i moribondi, non lasciava mai sfuggire un'occasione d'esercitarne due altri che si era imposti da sé: accomodar differenze e proteggere oppressi. In questo genio entrava per qualche parte senza che egli se ne avvedesse quella sua vecchia abitudine e un resticciolo di spiriti guerreschi che l'umiliazioni e le macerazioni non avevano potuto spegnere del tutto. Il suo linguaggio era abitualmente umile, posato, ma quando si trattasse di giustizia o di verità combattuta, l'uomo s'animava a un tratto dell'impeto antico che, secondato e modificato da un'enfasi solenne venutagli dall'uso del predicare, dava a quel linguaggio un carattere singolare. Tutto il suo contegno, come l'aspetto, annunziava una lunga guerra tra un'indole focosa, risentita, e una volontà opposta, abitualmente vittoriosa, sempre allerta e diretta da motivi e da ispirazioni superiori. Un suo confratello ed amico, che lo conosceva bene, l'aveva una volta paragonato a quelle parole troppo espressive nella loro forma naturale che alcuni, anche ben educati, pronunziano quando la passione trabocca, smozzicate con qualche lettera mutata, parole che in quel travisamento fanno però ricordare della loro energia primitiva. Se una poverella sconosciuta, nel tristo caso di Lucia, avesse chiesto l'aiuto del padre Cristoforo, egli sarebbe corso immediatamente. Trattandosi di Lucia, accorse con tanta più sollecitudine, in quanto conosceva e ammirava l'innocenza di lei. Era già in pensiero per i suoi pericoli e sentiva un'indignazione santa per la turpe persecuzione della quale era divenuta l'oggetto. Oltre di ciò, avendola consigliata per il meno male di non palesar nulla e di starsene quieta, temeva ora che il consiglio potesse aver prodotto qualche tristo effetto e alla sollecitudine di carità che era in lui come ingenita s'aggiungeva in questo caso quell'angustia scrupolosa che spesso tormenta i buoni. Ma intanto che noi siamo stati a raccontare i fatti del padre Cristoforo, è arrivato, si è affacciato all'uscio e le donne, lasciando il manico dell'aspo che facevan girare e stridere, si sono alzate dicendo a una voce: «Oh, padre Cristoforo, sia benedetto!» Il qual padre Cristoforo si fermò ritto sulla soglia e, appena ebbe dato un'occhiata alle donne, dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano falsi. Onde, con quel tono di interrogazione che va incontro a una triste risposta, alzando la barba con un moto leggero della testa all'indietro, disse: «Ebbene?» Lucia rispose con uno scoppio di pianto. La madre cominciava a far le scuse d'aver osato, ma il frate s'avanzò e, messosi a sedere su un panchetto a tre piedi, troncò i complimenti dicendo a Lucia: «Quietatevi, povera figliola, e voi», disse poi ad Agnese, «raccontatemi cosa c'è». Mentre la buona donna faceva alla meglio la sua dolorosa relazione, il frate diventava di mille colori e ora alzava gli occhi al cielo, ora batteva i piedi. Terminata la storia, si coprì il volto con le mani ed esclamò: Oh Dio benedetto, fino a quando? Ma senza compir la frase, voltandosi di nuovo alle donne, poverette, disse, Dio vi ha visitate, povera Lucia. Non ci abbandonerà, padre? Disse questa, singhiozzando. Abbandonarvi, rispose, e con che faccia potrei io chiedere a Dio qualcosa per me quando v'avessi abbandonata? Voi in questo stato, voi, che egli mi confida. Non vi perdete d'animo, egli v'assisterà, egli vede tutto. Egli può servirsi anche di un uomo da nulla come son io per confondere un... Vediamo, pensiamo quel che si possa fare. Così dicendo, appoggiò il gomito sinistro sul ginocchio, chinò la fronte nella palma e con la destra strinse la barba e il mento, come per tener ferme e unite tutte le potenze dell'animo. Ma la più attenta considerazione non serviva che a fargli scorgere più distintamente quanto il caso fosse pressante e intrigato e quanto scarsi, quanto incerti e pericolosi i ripieghi. Mettere un po' di vergogna a Don Abbondio e fargli sentire quanto manchi al suo dovere? Vergogna e dovere sono un nulla per lui quando ha paura. E fargli paura? Che mezzi ho io mai di fargliene una che superi quella che ha di una schioppettata? Informar di tutto il cardinale arcivescovo e invocar la sua autorità? Ci vuol tempo. E intanto? E poi? Quando anche questa povera innocente fosse maritata, sarebbe questo un freno per quell'uomo? Chissà a qual segno possa arrivare. E resistergli? Come? Ah! Se potessi, pensava il povero frate, se potessi tirar dalla mia i miei frati di qui, quei di Milano. Ma non è un affare comune, sarei abbandonato. Costui fa l'amico del convento, si spaccia per partigiano dei cappuccini e i suoi bravi non son venuti più di una volta a ricoverarsi da noi. Sarei solo in ballo. Mi buscherei anche dell'inquieto, dell'imbroglione, dell'attaccabrighe e quel che è di più, potrei forse anche con un tentativo fuor di tempo peggiorar la condizione di questa poveretta. Contrappesato il pro ed il contro di questo e di quel partito, il migliore gli parve d'affrontar Don Rodrigo stesso, tentar di smuoverlo dal suo infame proposito con le preghiere, con i terrori dell'altra vita e anche di questa, se fosse possibile. Alla peggio si potrebbe almeno conoscere per questa via più distintamente quanto colui fosse ostinato nel suo sporco impegno, scoprir di più le sue intenzioni e prender consiglio da ciò. Mentre il frate stava così meditando, Renzo, il quale per tutte le ragioni che ognuno può indovinare non sapeva star lontano da quella casa, era comparso sull'uscio, ma visto il padre soprapensiero e le donne che facevan cenno di non disturbarlo, si fermò sulla soglia in silenzio. Alzando la faccia per comunicare alle donne il suo progetto, il frate si accorse di lui e lo salutò in un modo che esprimeva un'affezione consueta, resa più intensa dalla pietà. «Le hanno detto, padre?» gli domandò Renzo con voce commossa. Purtroppo, è per questo che sono qui. Che dice di quel birbone e che vuol che io dica di lui? Non è qui a sentire che gioverebbero le mie parole. Dico a te, il mio Renzo, che tu confidi in Dio e che Dio non t'abbandonerà. Benedette le sue parole, esclamò il giovine. Lei non è di quelli che dan sempre torto ai poveri. Ma il signor curato e quel signor dottore delle cause perse. Non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente. Io sono un povero frate, ma ti ripeto quel che ho detto a queste donne. Per quel poco che posso, non v'abbandonerò. Sentite, figliuoli, riprese fra Cristoforo, io anderò oggi a parlare a quell'uomo. Se Dio gli tocca il cuore e dà forza alle mie parole, bene, se no, egli ci farà trovare qualche altro rimedio. Voi intanto statevi quieti, ritirati, scansate le ciarle e non vi fate vedere. Stasera o domattina più tardi mi rivedrete. Detto questo, troncò tutti i ringraziamenti e le benedizioni e partì. S'avviò al convento, arrivò a tempo d'andare in coro a cantar sesta, desinò e si mise subito in cammino verso il covile della fiera che voleva provarsi ad ammansare. Il palazzotto di Don Rodrigo sorgeva isolato, a somiglianza di una bicocca, sulla cima di uno dei poggi onde sparsa e rilevata quella costiera. A questa indicazione l'anonimo aggiunge che il luogo, avrebbe fatto meglio a scriverne alla buona il nome, era più in su del paesello degli sposi, discosto da questo forse 3 miglia e 4 dal convento. A piede del poggio, dalla parte che guarda a mezzogiorno e verso il lago, giaceva un mucchietto di casupole abitate dai contadini di Don Rodrigo, che era come la piccola capitale del suo piccol regno. Bastava passarvi per essere chiarito della condizione e dei costumi del paese. Dando un'occhiata nelle stanze terrene, dove qualche uscio fosse aperto, si vedevano attaccati al muro schioppi, tromboni, zappe, rastrelli, cappelli di paglia, reticelle e fiaschetti da polvere alla rinfusa. La gente che vi incontrava erano omacci tarchiati, arcigni, con un gran ciuffo arrovesciato sul capo e chiuso in una reticella. Vecchi che, perdute le zanne, parevan sempre pronti chi nulla nulla li aizzasse a digrignar le gengive. Donne con certe facce maschie e con certe braccia nerborute, buone da venire in aiuto della lingua quando questa non bastasse. Nei sembianti e nelle mosse dei fanciulli stessi che giocavan per la strada si vedeva un non so che di petulante e di provocativo. Fra Cristoforo attraversò il villaggio, salì per una viuzza a chiocciola e pervenne su una piccola spianata davanti al palazzotto. La porta era chiusa, segno che il padrone stava desinando e non voleva essere frastornato. Le rade e piccole finestre che davano sulla strada, chiuse da imposte sconnesse e consunte dagli anni, erano però difese da grosse inferriate e quel del pian terreno tant'alte che appena vi sarebbe arrivato un uomo sulle spalle di un altro. Regnava quivi un gran silenzio e un passeggero avrebbe potuto credere che fosse una casa abbandonata se 4 creature, 2 vive e 2 morte, collocate in simmetria di fuori, non avessero dato un indizio d'abitanti. 2 grandi avvoltoi con l'ali spalancate e cotteschi penzoloni, l'uno spennacchiato e mezzoroso dal tempo, l'altro ancor saldo e pennuto, erano chiodati ciascuno su un battente del portone. E 2 bravi, sdraiati ciascuno su una delle panche poste a destra e a sinistra, facevano la guardia, aspettando d'essere chiamati a goder gli avanzi della tavola del Signore. Il padre si fermò ritto, in atto di chi si dispone ad aspettare, ma uno dei bravi s'alzò e gli disse: «Padre, padre, venga pure avanti. Qui non si fanno aspettare i cappuccini. Noi siamo amici del convento e io ci sono stato in certi momenti che fuori non era troppa buon'aria per me e se mi avessero tenuta la porta chiusa la sarebbe andata male». E così dicendo diede 2 picchi col martello. A quel suono risposero subito di dentro gli urli e le strida di mastini e di cagnolini e pochi momenti dopo giunse borbottando un vecchio servitore, ma veduto il padre gli fece un grande inchino, acquietò le bestie con le mani e con la voce, introdusse l'ospite in un angusto cortile e richiuse la porta. Accompagnatolo poi in un salotto e guardandolo con una cert'aria di maraviglia e di rispetto disse: «Non è lei il padre Cristoforo di Pescarenico?» «Per l'appunto, lei qui, come vedete, buon uomo, sarà per fare del bene». «Del bene», continuò mormorando tra i denti e rincamminandosi, «se ne può far per tutto». E attraversati 2 o 3 altri salotti oscuri, arrivarono all'uscio della sala del convito. Quivi un gran frastuono confuso di forchette, di coltelli, di bicchieri, di piatti e soprattutto di voci discordi che cercavano a vicenda di soverchiarsi. Il frate voleva ritirarsi e stava contrastando dietro l'uscio col servitore per ottenere d'esser lasciato in qualche canto della casa finché il pranzo fosse terminato, quando l'uscio s'aprì. Un certo conte Attilio, che stava seduto in faccia, era un cugino del padron di casa e abbiamo già fatta menzione di lui senza nominarlo, veduta una testa rasa e una tonaca e accortosi dell'intenzione modesta del buon frate. «Ehi, ehi!» gridò. «Non ci scappi, padre riverito! Avanti, avanti!» Don Rodrigo, senza indovinar precisamente il soggetto di quella visita, pure per non so qual presentimento confuso, ne avrebbe fatto di meno. Ma poiché lo spensierato d'Attilio aveva fatta quella gran chiamata, non conveniva a lui di tirarsene indietro e disse: «Venga, padre, venga!» Il padre s'avanzò, inchinandosi al padrone e rispondendo a due mani ai saluti dei commensali. L'uomo onesto in faccia al malvagio piace generalmente, e non dico a tutti, a immaginarselo con la fronte alta, con lo sguardo sicuro, col petto rilevato, con lo scilinguagnolo ben sciolto. Nel fatto però, per fargli prendere quell'attitudine, si richiedono molte circostanze, le quali ben di rado si riscontrano insieme. Perciò non vi maravigliate se fra Cristoforo, col buon testimonio della sua coscienza, col sentimento fermissimo della giustizia della causa che veniva a sostenere, con un sentimento misto d'orrore e di compassione per Don Rodrigo, stesse con una cert'aria di soggezione e di rispetto alla presenza di quello stesso Don Rodrigo, che era lì, in capo di tavola, in casa sua, nel suo regno, circondato d'amici, d'omaggi, di tanti segni della sua potenza, con un viso da far morire in bocca a chi si sia una preghiera, nonché un consiglio, nonché una correzione, nonché un rimprovero. Alla sua destra sedeva quel conte Attilio, suo cugino, e se fa bisogno di dirlo, suo collega di libertinaggio e di soverchieria, il quale era venuto da Milano a villeggiare per alcuni giorni con lui. Beh, a sinistra e a un altro lato della tavola stava, con gran rispetto, temperato però di una certa sicurezza e di una certa saccenteria, il signor Podestà, quel medesimo a cui, in teoria, sarebbe toccato a far giustizia a Renzo Tramaglino e a far stare a dovere Don Rodrigo, come si è visto di sopra. E in faccia al Podestà, in atto di un rispetto il più puro e il più sviscerato, sedeva il nostro dottor Azzeccacarbugli, in cappa nera e col naso più rubicondo del solito. In faccia ai due cugini, due convitati oscuri, dei quali la nostra storia dice soltanto che non facevano altro che mangiare, chinare il capo, sorridere e approvare ogni cosa che dicesse un commensale e a cui un altro non contraddicesse. Massimo Popolizio ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.